New Zone. Incontro con gli europarlamentari. Nome: Cecil. Cognome: Chienghe. Età: 51. Nata: Cambove, Repubblica Democratica del Congo. Eletta in circoscrizione nord-est. Con quanti voti? 93.000. Partito politico: Partito Democratico. Gruppo politico: Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo. Segni particolari: nera. Quante lingue parla? 6. Francese, inglese, italiano, swahili, bemba, lingala. Competenze europee in 10 parole: immigrazione, razzismo, diritti umani, futuro delle relazioni Unione Europea-Africa, Caraibi e Pacifico. Benvenuta nella You Zone di Radio 24 da Silvia Bernardi. 250.000 euro a migrante di multa per chi rifiuta le quote di ricollocamento, lo dice la Commissione. Spot o proposta realizzabile? È una proposta che serve per responsabilizzare gli stati dell'Unione Europea e andare oltre gli egoismi degli stati membri. Migration Compact, se approvato, come può modificare la situazione sul medio e lungo periodo senza fondi aggiuntivi di bilancio UE già approvato al 2020? Sono allo studio alcune proposte, cioè è importante arrivare all'obiettivo. Credo che agire sulle cause profonde dell'immigrazione, cooperando in modo più stringente con i paesi terzi di origine e di transito, anche con il potenziamento di strumenti già disponibili, come il Trust Fund for Africa. L'immigrazione divide l'Europa e sta mettendo a rischio l'Unione Europea. Esiste un punto di mediazione? Dobbiamo arrivare a una politica migratoria comune all'altezza delle sfide del XXI secolo. Credo che gli Stati dell'Unione Europea devono applicare il principio di solidarietà e piena condivisione delle responsabilità fra tutti gli Stati membri, cioè in materia di politiche migratorie, di asilo, ma anche di gestione delle frontiere, solidarmente tutti insieme. E questo deve essere fatto anche sul piano finanziario. Dobbiamo istituire una guardia costiera di frontiera europea per gestire e governare, ma non nell'ottica securitaria, ma nell'ottica di gestire il fenomeno migratorio responsabilmente. Donna, medico, politico, dove si riconosce di più? In tutte e tre, perché io considero che tutte e tre si ritrovano un'identità plurale. Il suo peggior nemico? La discriminazione insieme alla violazione dei diritti umani. Battaglia vinta o persa? È vinta, perché una persona nata in un altro paese e che riesce a fare una piena un pieno percorso di integrazione politica fino ad arrivare al livello di governo in Italia, rappresenta già una vittoria culturale dalla quale non si può tornare indietro, quindi battaglia vinta. Il suo alleato? I giovani e la loro voglia di cambiamento. Se avesse la bacchetta magica? La bacchetta magica insisterei di più sulla libera circolazione e soprattutto sul fatto che ognuno debba poter realizzare il proprio sogno accompagnandolo nel proprio percorso. You Zone. Incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.